Ci sono pochissimi dubbi oramai. La giovane influencer milanese, Chiara Ferragni è soltanto lo strumento, inconsapevole probabilmente, machiavellicamente utilizzato, per una sporca operazione finanziaria tesa a mettere in difficoltà una delle grandi eccellenze industriali italiane. La Balocco SPA, industria dolciaria con una grandissima reputazione internazionale, ha sede a Fossano, vicino a Cuneo, occupa 500 persone, ha un fatturato che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Un anno e mezzo fa ha perso il suo leader, Alberto Balocco, che io ben conoscevo, una persona dolce, adorabile, corretta, che aveva improntato la gestione dell'azienda di famiglia alla umanità più stringente. Il rapporto che aveva con il territorio era esemplare, e così come lo era quello che aveva con i propri dipendenti, con le famiglie dei propri dipendenti, di cui conosceva ogni problematica, interveniva se era necessario con l'aiuto. Un uomo buono, padre di tre figli, sposato con una simpaticissima donna napoletana che si chiama Susanna, e molto sportivo. E purtroppo proprio lo sport gli è costato molto caro. Era uno dei suoi pochi attimi di serena libertà. Così, un anno e mezzo fa, durante una passeggiata in mountain bike sulle nostre montagne dell'Alta Val di Susa, insieme al suo amico, che ben conoscevo anch'io, Davide, ha perso la vita, colpito da un fulmine. È stata una notizia terribile che si è abbattuta ovviamente anche sulla conduzione dell'azienda che dà da mangiare a 500 famiglie. Ha lasciato orfani tre splendidi ragazzi, tre splendidi figli e vedova una donna molto molto in gamba. Al suo posto siede ora la sorella Alessandra, che già aveva un ruolo nel CDA, e adesso è lei che ha le redini del comando. Bene, secondo me non c'è davvero nessun'ombra di dubbio che l'inchiesta e il fascicolo aperto dalla Procura di Milano, dalla Procura della Repubblica di Milano, contro Chiara Ferragni e contro Alessandra Balocco per truffa aggravata, sia, come dire, il primo passo per il tentativo di creare davvero delle difficoltà importanti sul mercato alla Balocco SPA. Un po' approfittando anche di quella figura carismatica che ora non c'è più, di Alberto, che portava avanti una tradizione familiare. Balocco, il nonno di Alberto Balocco, era un pasticcere, da una pasticceria è nata una grande industria internazionale, invidiata, è stata sponsor di grandi squadre di calcio, ha investito nello sport e nel ciclismo, lui come persona aveva anche una presenza nel volontariato, aiuta i giovani, ha aiutato i giovani, insomma, questo marketing indiretto, quasi familiare, aveva portato ai vertici dell'industria dolciaria internazionale questa piccola, ex piccola azienda del Cuneese. E tutto questo ovviamente faceva gola a tanti e fa ancora gola a tanti. Mi viene solo in mente un esempio per fare, che probabilmente non c'entra niente. A un certo punto la Turchia di Erdogan ha comprato un'altra piccola eccellenza dolciaria, la Pernigotti, e ha provato ad attaccare anche la Ferrero, perché la Turchia credo che abbia la più grande produzione di nocciole al mondo, e quindi attaccando la Ferrero voleva in qualche modo impossessarsi della Nutella. Ovviamente l'operazione non è riuscita, ma questo mi ha fatto venire in mente che chi si impossessa, chi attacca, chi riuscisse a ottenere nel proprio portafoglio industriale un'eccellenza come la Balocco farebbe bingo, perché si porterebbe dentro un sacco di soldi, ma si porterebbe dentro anche un'altissima reputazione, la possibilità di eccellenti sviluppi, con il cinismo di fregarsene che magari vengono messe sulla strada 500 famiglie, mogli, mariti, figli, un territorio, verrebbe danneggiato un territorio. Ora io assolutamente spero che tutto ciò non succeda, sono sicuro che l'azienda stia facendo i passi per dimostrare la propria totale buona fede in questa che era un'operazione di marketing, che ancora peraltro non ho ben capito dove stia l'imbroglio. È per questo che io penso che sia stato colto, diciamo, un pretesto per mettere in difficoltà quest'industria dolciaria. Anche perché nella mia, diciamo, attività giornalistica, proprio recentemente mi sto ancora in qualche modo occupando di un caso simile, di un personaggio che aveva 700 dipendenti, un grande patrimonio immobiliare, e che gli è stato portato via tutto, dalle banche, dai concorrenti, dai soci, attraverso azioni giudiziarie, con un combinato disposto che ha visto complici probabilmente involontari, mi auguro, la magistratura e le banche. Ecco, questo signore ha perso tutto. Allora, quando io ho sentito che è stato aperto un fascicolo contro Chiara Ferragni e contro, quanto mi risulta, anche il numero uno attuale nella Balocco SPA, mi si sono drizzate le antenne e ho sentito puzza di bruciato. Secondo me stanno cercando di, attraverso Chiara Ferragni, che non c'entra nulla, probabilmente stanno cercando di creare un danno alla Balocco SPA, che magari avrà persino difficoltà Babbo Natale a toglierla da questo loop. Io spero che non succeda, mi auguro che non succeda, ma vedo che ci sono tutte le nuvole addensate sopra questa eccellenza industriale del nostro paese, che tanto sta facendo del bene al proprio territorio. Spero di sbagliarmi, ma teniamo gli occhi aperti e non facciamoci far fessi dal pensiero unico.